America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. New York sets up very well for Donald Trump, even without the home state advantage. They see him as authentic. Bene, siamo arrivati alle elezioni a New York. Le primarie newyorkesi, devo dire, erano decenni che New York non contava tanto nel processo elettorale americano, tra l'altro sia in campo repubblicano che in campo democratico. Perché queste elezioni saranno decisive? Beh, perché chi vincerà bene qui, e sottolineo bene, quindi mi riferisco soprattutto a Donald Trump favorito fra i repubblicani e Hillary Clinton fra i democratici, potrà avere, come dire, la strada spianata per fare altrettanto bene in Pennsylvania, in Maryland, fino poi alla California. E però per far bene cosa deve succedere? Bisogna che Trump e Hillary Clinton vincano con un buon margine al di sopra del 50%, 51, 52. In realtà nel caso di Trump basta essere appena superiore al 50%, perché per le regole del Partito Repubblicano chi supera il 50% si prende tutti i delegati di New York, e in campo repubblicano sono la bellezza di 94. Dunque Trump, se vincesse bene, potrebbe balzare a quota 837 contro i 543 delegati di Cruz e dunque avvicinarsi a quella meta di 1237 delegati necessaria per vincere la nomination. In campo democratico, beh, devo dire che Hillary sente il fiato sul collo di Bernie Sanders, perché è riuscito già a ridurre. Hillary conduce con circa il 53% nei sondaggi contro il 41% di Sanders, però prima aveva una maggioranza più forte, aveva una maggioranza più forte in California, e Sanders, devo dire, è inarrestabile, si sta battendo come un leone, riesce a inventare ogni giorno una cosa nuova che poi affascina la stampa americana. Beh, l'ultima, devo dire, è stato il colpaccio di venire a Roma, di incontrarsi, anche se è stato un incontro rapido, con Papa Francesco, e di aver partecipato oltretutto a questo convegno che parlava di economia e della necessità di trovare dei modelli che possano evitare le sperequazioni dei redditi. Ecco, devo dire, mi ha colpito l'attivismo di Papa Francesco, perché si è dato molto da fare in relazione all'America. Intanto, c'è stato questo viaggio straordinario di cui vi ho dato notizia quando il Papa è stato qui fra Washington, New York e Philadelphia. Però è stato anche il Papa che ha aperto, ha consentito il dialogo tra Stati Uniti e Cuba. Poi col viaggio straordinario di Barack Obama a L'Avana, un Papa che è su posizioni molto simili a quelle dell'amministrazione, per esempio in materia climatica, oppure sulle armi, oppure per i rifugiati. Beh, pensiamo al fatto che sia tornato dal suo viaggio in Grecia con 12 rifugiati, cosa che ha subito conquistato le prime pagine dei giornali americani. È un Papa che è intervenuto in queste elezioni. Ha stretto la mano a Bernie Sanders, consentendogli di incassare comunque un dividendo importante, e ha invece messo la gamba di traverso su Donald Trump, dicendo che i muri si devono distruggere e non costruire. E che io vorrei riflettere sul ruolo del Papa in queste elezioni. Tra l'altro proprio giovedì ci sarà la presentazione di un libro, The American Pope, su questo Papa americano, qui a New York, alla Columbia University, libro di Lara Jakes, Paolo Messa e Massimo Milone. E abbiamo proprio il microfono in America 24 Paolo Messa, con cui cercheremo di capire ma che c'ha sto Papa con l'America. Buongiorno Paolo. Buongiorno a tutti voi di America 24. Allora, noi ci siamo visti anche qui al Council on Foreign Relations qualche tempo fa, dunque tu sei tra l'altro anche il direttore del Centro Studi Americani di Roma, e quindi sei la persona più adatta per darci uno spaccato di questo rapporto tra Papa e Stati Uniti. Tu come lo vedi? Mi sembra un rapporto molto forte. Questo è il primo pontefice che viene dal continente americano, ancorché dal Sud America, e ha una attenzione grandissima verso la politica degli Stati Uniti d'America, perché riconosce lì il baricentro di un equilibrio globale che lui vuole spostare, modificare. E quindi non mi stupisce che quando per esempio era su un volo con i giornalisti, rientrando a Roma, i cronisti lo incalzavano sul tema delle unioni civili nel dibattito parlamentare italiano. Lui disse che preferiva non rispondere, salvo richiamare i giornalisti e fare la famosa battuta che tu citavi su Donald Trump. Quindi è un Papa che ha nella giusta considerazione la centralità delle elezioni americane e in generale quello che accade nel Nord America. Ecco, è stato molto curioso questo viaggio di Sanders. Tra l'altro, tu ne devi sapere qualcosa di più, perché ho visto che con Bernie Sanders c'era Jeffrey Sachs, e Jeffrey Sachs sarà fra coloro che presenteranno il tuo libro. Quindi magari lo hai incontrato. Cosa ci racconti? Quali sono i retroscena attorno a questa visita? Perché non è banale che un candidato come Sanders riesca ad andare a Città del Vaticano, addirittura a vedere insomma, ha colto in contropiede Hillary Clinton completamente. Bernie Sanders è stato invitato alla Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, e qui un ruolo fondamentale lo ha giocato Jeffrey Sachs. Chi è costui? È un professore universitario, insegna alla Columbia University, è il direttore del Hart Institute ed è soprattutto l'advisor sia del segretario generale delle Nazioni Unite, sia lo è stato per il Sommo Pontefice quando ha dovuto elaborare la sua celebre ormai enciclica Laudato Si. Jeffrey Sachs ha fatto parte dello staff che ha lavorato a dare un contributo scientifico affinché questo testo venisse poi elaborato, scritto e sottoscritto da Papa Francesco. Quindi Jeffrey Sachs svolge all'interno della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali un ruolo centrale, ed è possibile immaginare che abbia avuto un ruolo molto attivo nel presentare Bernie Sanders alle gerarchie vaticane. Da qui all'incontro, seppure riservato e senza fotografi, con Bernie Sanders è stato un attimo a testimonianza del fatto che questo Papa, come dicevamo, è molto attento alla politica americana. Un'attenzione però, ovviamente il pontefice non vota negli Stati Uniti e non vota in assoluto. La mia personale opinione è che lui non sia ingaggiato in una battaglia a favore di un candidato, ma è fortemente impegnato a promuovere alcuni temi. E certamente Bernie Sanders ha avuto l'abilità di guardare questi temi, di farne una bandiera e quindi di utilizzare in qualche forma l'endorsement del Santo Padre. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili e resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Sempre con noi, microfoni, America 24, Paolo Messa. Paolo, ma che canzone potremmo suggerire? Una canzone magari che può piacere al Papa, una canzone americana. Ti viene in mente qualcosa? Io non conosco i gusti musicali del Santo Padre, ma guardando per la rete ho scoperto di una canzone che sarebbe accreditata come una delle preferite di Papa Francesco, e io francamente ascoltandola ho qualche dubbio, ma lascerei la valutazione agli ascoltatori di Radio 24, di America 24. La canzone, mi fa piacere annunciarla, è quella dei One Direction, What Makes You Beautiful. Ah, benissimo, allora la pop song che piace di più al Papa, naturalmente, come hai detto tu stesso con molta prudenza, What Makes You Beautiful. Che cosa ti rende bello? Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!